È lunedì 3 settembre, molti di voi rientrano al lavoro oggi e sappiate che il sottosegretario Polillo ha detto bisogna lavorare di più. Lo ha ribadito anche oggi in un'intervista, tra poco lo vedremo. In ogni caso, ben ritrovati al lavoro. Se state andando sui vostri posti di lavoro in macchina, la lettura dei quotidiani, intanto il Sole 24 Ore, non una bella notizia in apertura, tutti gli aumenti dell'autunno. Ecco, la classica notizia che uno quando riprende a lavorare forse non vorrebbe sapere. L'ultimo trimestre dell'anno costerà fino a 450 euro in più per ogni famiglia. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Poi vediamo il Corriere della Sera. La crisi assedia il commercio nel settore, già costretti a chiudere 105.000 imprese. Per la Stampa, produttività, l'Italia è ultima. Il Messaggero, al lavoro sempre meno giovani. Insomma, avete capito il tenore delle notizie che vi aspettano al rientro? Repubblica, giustizia, le mosse del governo. C'è l'agenda di quello che è su questo tema chiave, la giustizia, secondo Repubblica. Le mosse che vuole fare il governo Monti, mentre il Giornale torna sulla vicenda Napolitano intercettazioni, la verità su Napolitano, questo è il titolo, mentre l'Unità, senza lavoro pagano i giovani. E anche il Secolo XIX, alimentari e tariffe, la stangata, aumenti autunnali solo di cibo, 550 euro in più. Vabbè, ci sarebbe da dire, ok, ce ne torniamo in vacanza. Già, ma con quali soldi? Allora, intanto voglio partire da un articolo che trovate sul Sole 24 Ore, pagina 11, che riguarda l'auto blu. Prima, chi era addormentato, se lo deve andare ad ascoltare, abbiamo sentito la voce di Ciriaco De Mita, che la nostra Elisabetta Fusconi ha parlato della scorta, anzi la dudela, la tutela, come lui l'ha definita, che lo ha portato al centro dei riflettori, le polemiche sui giornali. Allora, questo articolo sul Sole 24 Ore riguarda le auto blu. È un articolo che mette insieme le mail. Vi ricordate l'iniziativa di spedire al governo le mail per i suggerimenti su dove tagliare? Ebbene, racconta Valeria Uva a pagina 11, è l'auto blu in cima ai tagli. Questo secondo le proposte dei cittadini, è il simbolo della casta per eccellenza, ha vinto la speciale classifica delle più odiate dagli italiani, è l'auto blu, è la metafora del privilegio, ora anche dello spreco, che di fatto ha dominato la consultazione pubblica sulla spending review attivata dal governo. Delle 80.000 mail che hanno inondato il sito, la casella speciale attivata per sollecitare le proposte dei cittadini, oltre 29.000 mail, dunque il 36,51%, riguardavano la detestata auto blu. Secondo i cittadini sono tante, troppe e troppo costose, un lusso che non possiamo permetterci. E ci sono alcune delle mail anche pubblicate dal Sole 24 Ore, di persone che le hanno mandate al governo. Per esempio Valerio da Roma, che scrive: presso la Corte Costituzionale si riconosce il privilegio dell'auto blu anche ai membri della Corte cessati dalla carica. Oppure Maria Luisa da Caserta: nelle ASL della Campania sono stati fatti notevoli tagli, ma perché il direttore generale dell'ASL di Caserta viaggia in auto blu con tanto di autista? È normale? O ancora Michele da Barletta: nella mia bellissima città Barletta il sindaco ha un'auto blu di grossa cilindrata che usa per andare da casa sua al palazzo di città accompagnato da un vigile urbano in qualità di autista. Ma il nostro sindaco non potrebbe andare a piedi al lavoro? E ancora Pietro da Napoli: sono passati 2 anni circa da quando l'onorevole Antonio Bassolino non è più il presidente della regione, nonostante questo possiede ancora l'auto blu con due agenti di polizia. Non so se gli spetta per motivi di sicurezza, ma credo sia mio dovere segnalare questa cosa, visto che pago le tasse. Insomma, l'auto blu è il simbolo più odiato. Come al solito ci si focalizza, ci si concentra su cose che se venissero tagliate, e è un bene, lo attendiamo tutti, farebbero risparmiare pochissimo rispetto ai veri sprechi di uno Stato. Però anche i simboli hanno un loro significato e dunque ecco che gli italiani si concentrano molto su questo. Il secondo articolo da cui vorrei partire in questa rassegna stampa per le segnalazioni lo trovate in prima pagina sulla Repubblica. È un interessante sondaggio fatto dall'Istituto Moressa sul tema gli italiani e gli stranieri, gli italiani e gli immigrati. Vladimiro Polchi racconta che di fronte alle domande poste a molti italiani sugli immigrati c'è un'ignoranza totale da parte di noi italiani nei confronti degli immigrati e dei luoghi comuni abbastanza clamorosi. Per esempio, quanti sono gli immigrati in Italia? Sicuramente meno di 2 milioni, hanno risposto molti italiani. In realtà l'errore è marchiano, sono 4,5 milioni. Gli irregolari, oltre un quarto del totale, una marea, ma invece è falso. Perché in realtà sovrastimiamo la clandestinità, gli irregolari sarebbero un quarto degli stranieri, il 26,7% secondo le risposte degli italiani, in realtà gli irregolari non superano il 10,7%, oppure vediamo cinesi ovunque, stando alle risposte sarebbero loro la prima comunità, mentre sono la quarta comunità, i primi sono i rumeni, poi gli albanesi e poi i marocchini. Anche rispetto al lavoro mostriamo un po' di confusione. L'agricoltura viene indicata come il primo settore di occupazione degli stranieri davanti al lavoro domestico e le costruzioni. In realtà gli immigrati sono maggiormente occupati nel settore dei servizi alla persona, tra cui il lavoro domestico, nell'industria e nelle costruzioni, mentre l'agricoltura arriva solo all'ultimo posto. Non solo, scrive sempre Repubblica, l'88% degli italiani interrogati sbaglia quando, interrogato su chi abbia maggiormente subito un aumento della disoccupazione a causa della crisi, indica gli italiani, mentre si tratta degli stranieri. Infine, più della metà degli interrogati, il 63,6%, pensa erroneamente che un bambino nato in Italia da genitori stranieri acquisti la cittadinanza italiana. Invece da noi lo ius soli, cioè il diritto legato al territorio, è ancora un miraggio, visto che la nostra legge resta inchiodata al vecchio ius sanguinis, il diritto del sangue, per cui il bambino acquista solo la cittadinanza dei genitori stranieri. Insomma, troppi fannulloni e irregolari, ecco i falsi miti sugli immigrati. È un test che è stato fatto appunto dall'istituto, dalla Fondazione Leone Moressa, che ha interrogato 600 italiani raccogliendo poi le risposte. Trovate tutto su Repubblica in prima pagina. E poi l'articolo continua all'interno a pagina 21, tra l'altro proprio in un periodo dal 15 settembre, come ricorda oggi Italia Oggi, in prima pagina parte la nuova sanatoria per gli immigrati, con 500.000 di lavoratori che dal 15 settembre per un mese avranno una finestra per richiedere la sanatoria degli immigrati irregolari, questo per i datori di lavoro. Va bene, ci fermiamo per quanti minuti? Per 3 minuti e poi ripartiamo dalle altre notizie. Le notizie, certo, non molto positive, le trovate oggi sui giornali. Voi mi potreste dire, quando mai le troviamo positive? No, ce ne sono di positive. Però oggi particolarmente negative sul fronte del lavoro e dei soldi, bollette, che dovremo pagare da qui alla fine dell'anno. Tra poco. Sono le 7:34 minuti e siamo già in onda da un'ora, eh? Ebbene sì, dalle 6:30 oggi, lo ribadirò adesso, poi per i primi giorni ve lo dico varie volte, poi non vi rompo più i maroni su questa cosa, dalle 6:35 siamo in onda a partire da oggi con 24 mattino. Allora, continuiamo la lettura dei giornali. Come detto, mi voglio concentrare sull'apertura del Sole 24 Ore di oggi, che non è certo una bella notizia per tutti voi, cari italiani, che magari oggi ripartite e tornate a lavorare e leggete questo, che l'aumento di tariffe, imposte, carburanti costerà da 200 a 450 euro per famiglia tra settembre e dicembre, quindi alla fine dell'anno. La stangata d'autunno, no? Questo termine che da periodicamente si sente insieme a autunno caldo, un'espressione che c'è sempre. È stangata d'autunno, questa volta però è certificata con dati. Il frutto degli ultimi rincari dell'energia, delle manovre finanziarie dei mesi passati, e dunque i propri effetti si sentiranno qui, in questi mesi, particolarmente. C'è anche l'ultima, c'è il pagamento dell'IMU. Comunque tutti i dettagli li trovate a pagina 3 con Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente. Tariffe, IMU, benzina fino a 450 euro in più. Si tratta di una elaborazione condotta dal Sole 24 Ore del lunedì insieme a REF Ricerche e Unioncamere Indis. È stato misurato l'impatto dei rincari in bolletta per elettricità, gas, rifiuti e acqua, simulando 3 famiglie tipo con stili di consumo nella media. vale a dire il single, la coppia di anziani e la famiglia con due bambini. E in questo calcolo, poi lo trovate in tutte le tabelle, dettagliato, se volete andare nei dettagli, insomma, leggetelo sul Sole 24 Ore, pagina 3, ma tra carico fiscale, aumento delle bollette, queste sono le cifre, un esborso che può variare in più rispetto all'anno scorso, rispetto al 2011, dai 200 ai 450 euro. D'altronde, ascoltatori, la situazione è questa. E lo si può anche evincere da due articoli. Uno lo trovate sulla Stampa, uno sul Quotidiano Nazionale. Sulla Stampa lo trovate a pagina 5. Il caso è questo. Dalla spesa al dentifricio, lo sconto sul pieno è l'ultima frontiera del marketing. Cioè ormai c'è talmente tanta sensibilità su questo tema che va a intaccare il nostro portafogli, cioè la benzina, le bollette, che il nuovo marketing, le nuove campagne pubblicitarie stanno fiorendo su questo tema. Vieni da noi a comprare qualcosa e noi ti regaliamo, che ne so, dei buoni benzina. L'incubo dei rincari scatena la fantasia dei pubblicitari, così Sandra Riccio sulla Stampa, pagina 5 appunto, racconta. Da oggi fare il pieno al distributore rischia di diventare di nuovo un lusso da ricchi. Ieri sono terminate le campagne promozionali dei grandi marchi del rifornimento che offrivano sconti a chi riempiva il serbatoio nel weekend. E allora ecco che si sono ingegnate a offrire il rimedio antisalasso. Per esempio un big della grande distribuzione come Esselunga, oppure marchi dell'igiene personale come Colgate o le catene di fast food come McDonald's. Partiamo da Esselunga, la catena supermercati ha lanciato una nuova proposta. Dal 30 agosto e fino al 12 settembre chi fa una spesa al supermercato di almeno 50 euro e ha la carta Esselunga riceve un buono da 8 euro da spendere presso i Kuwait. Oppure Colgate, chi acquista 6 confezioni di dentifricio ha un buono omaggio di 10 euro da spendere nelle maggiori catene di distributori. Insomma, e così via. Cioè ci si ingegna per cercare di dare la benzina gratis. D'altronde ormai la benzina è un lusso per pochi, si può dire, o meglio no, poi la utilizziamo tutti, ma va a intaccare moltissimo sul mensile. Prima mi ha colpito molto, avevamo alle 6.30 Francesco Costa, collegato dagli Stati Uniti, a dirci che la benzina lì costa 70 centesimi al litro. Certo, lì hanno i pozzi petroliferi, ma 70 centesimi al litro, qui siamo arrivati a 2 euro. E d'altronde poi i risultati si vedono. Il Quotidiano Nazionale ieri: benzina all'assalto con le taniche, code e tensioni per l'ultimo sconto. Ma cari italiani, siamo arrivati a questo, a dover rischiare l'intervento dei carabinieri, come è successo ieri a Rimini. Arrivano i carabinieri con le multe a chi fa le super scorte, racconta Pierluigi Martelli a pagina 15 del Quotidiano Nazionale. Davanti a una tanica di 15 litri hanno chiuso un occhio, ma di fronte a 5 taniche da 20 litri ciascuno, con tanto di apecara al seguito per il trasporto, i carabinieri di Rimini hanno messo la paletta e sanzionato con un'ammenda di 100 euro, visto che il codice della strada consente di riempire il serbatoio dell'auto e avere al massimo una tanica da 10 litri di scorta. Poi c'è gente che ha rischiato le risse, cioè, avete capito la follia? Una persona che è andata a fare la benzina con lo sconto e si è ritrovata fermata dai carabinieri a pagare 100 euro di sanzione perché trasportava 5 taniche di benzina, il che è vietato dal codice della strada. Ci siamo alla follia più pura. Questa persona ricorderà questo sconto col pieno benzina per almeno 6 mesi, quando dovrà ammortizzare la spesa di 100 euro presa come multa dai carabinieri di fronte al risparmio che puntava a fare facendo il pieno di benzina. E d'altronde la situazione è questa, effettivamente. E la situazione è che quando si fa il pieno di benzina basta andare, si vedono scene di persone che aprono il portafogli molto molto a fatica. E per quel che riguarda la situazione macroeconomica più ampia, invece, vi voglio segnalare che cosa. Beh, intanto un'intervista di Susanna Camusso, la leader della CGIL, che affronta il tema del lavoro. Lo fa su Repubblica, intervistata da Roberto Mania, lancia questa proposta. Camusso: ora bisogna detassare le tredicesime dei lavoratori e dei pensionati coi soldi recuperati dall'evasione. È la prima cosa da fare detassare le prossime tredicesime di lavoratori e pensionati, utilizzando appunto le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale. L'intervista la trovate a pagina 6 di Repubblica. Prima di parlare di riduzione del cuneo fiscale, dice la Camusso, credo si debbano ridurre le tasse sui lavoratori e pensionati. Ricordo che già il governo Prodi tagliò il cuneo fiscale, ma solo a beneficio delle imprese. Così non va bene. Il governo però ha già detto che non ci sono i presupposti per modificare le aliquote IRPEF, chiede Roberto Mania. Beh, penso che serva innanzitutto un segnale di discontinuità, risponde la Camusso, per dare un po' di soldi ai lavoratori e rilanciare i consumi. Si può realizzarle detassando le tredicesime fino a 150.000 euro di reddito. Come si trovano le risorse? Per la copertura si potranno utilizzare i proventi della lotta all'evasione fiscale, perché sarebbe una misura congiunturale e non strutturale. Questa è la proposta della leader della CGIL. Anche Bonanni della CISL fa un'intervista al Messaggero, l'intervista la trovate a pagina 3, intervistato da Diodato Pirone, dice subito la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori e meno tasse sui premi di produttività. Insomma, l'obiettivo è quello di far trovare un po' più di soldi alla fine del mese ai lavoratori, anche se Susanna Camusso ieri invece in una festa in provincia di Rovigo, una festa del Partito Democratico, è stata più dura, non ha parlato con il velluto come ha fatto in questa intervista a Repubblica. Sentite che cosa ha detto. L'esperienza del governo Monti è giunta al capolinea. Questa è la frase molto molto dura, secondo noi ovviamente, secondo la leader della CGIL, il governo è al capolinea. Questo infatti è il titolo dell'articolo che trovate sul Corriere della Sera a pagina 4. Situazione sul fronte del lavoro anche non facile, tanto che il giornale a pagina 6 fa una pagina dal titolo Oltre la crisi, il lavoro che c'è, ecco 5 idee per trovare un impiego. La disoccupazione giovanile ormai a livello record nel nostro paese, trovare il lavoro però, dice il giornale, non è un sogno impossibile, bisogna saperlo cercare. Come? Orientarsi nello studio, nel mondo del lavoro non è mai stato facile. Ecco cosa studiare, cosa fare di fronte alla domanda classica, meglio un mestiere oppure una professione, cosa fare anche di fronte ai giovani che chiedono andare all'estero, conviene o no, l'idea di mettersi in proprio sì o no. Insomma, cerca di fare qualche risposta a queste domande chiavi di fronte a cui si trovano molti giovani. Il giornale le trovate a pagina 6. Mentre il sottosegretario Polillo, Gianfranco Polillo, sapete che ha questo pallino del dire bisogna lavorare di più, cioè un pallino, qualcosa che lui dice è anche confermato dai dati. Il sottosegretario Polillo, magari voi siete appena tornati dalle ferie, e vi accoglie proprio con questo, con un'intervista alla Stampa in cui ribadisce: in Italia si deve lavorare di più, bisogna aumentare la produttività e così si crea nuova occupazione. Intervistato dalla Stampa, eccolo qui Polillo: intanto pensiamo a un'Italia in cui si lavori di più quantitativamente. Non possiamo trascurare che esiste un divario, vogliamo dire uno spread, tra i giorni lavorati in Italia e quelli negli altri paesi con cui ci confrontiamo. Penso alle ferie, ai permessi retribuiti. Questo tema va affrontato, può essere ostico, ma va affrontato. E poi certamente il modello tedesco è una realtà a cui guardiamo con interesse, anche perché ha dato buoni frutti. Insomma, il sottosegretario all'economia insiste su questo tema che è il suo cavallo di battaglia. Bisogna affrontare questo tema ostico dei troppe ferie, troppi permessi pagati, troppi permessi retribuiti in Italia. Ci vuole più produttività, bisogna lavorare quantitativamente di più. E mentre il Corriere della Sera lancia un allarme sul fronte lavoro, che è un allarme che diventa anche il titolo di prima pagina. La crisi assedia il commercio. Stefania Tamburello, nel settore sarà un autunno soprattutto per i negozianti durissimo. Nel 2011 hanno chiuso oltre 105.000 imprese commerciali, di queste 62.477 al dettaglio. Nel 2012 potrebbero cessare l'attività 150.000 imprese. E insomma, il settore del dettaglio è in grande difficoltà. Il saldo tra le sole imprese che operano al dettaglio nate e morte nel 2012 potrebbe salire a 20.000 e la previsione di Confcommercio per quest'anno è di un calo del 3,3% dei consumi pro capite, peggiore rispetto al 2011. Ecco dunque l'analisi, con un'analisi anche di Dario Di Vico, su reti, distretti, orari, così si possono salvare i piccoli, la trovate, è molto interessante, a pagina 5 del Corriere della Sera, per fronteggiare questa crisi che riguarda soprattutto appunto il commercio. Vedete, non buone notizie, questo è al rientro delle vostre vacanze per chi rientra oggi, alla prosecuzione del lavoro per chi ci è già rientrato e le vacanze le ha già dimenticate da un pezzo, come il nostro alpino Peter Bescapè. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, perché poi Beppe Grillo ha tuonato: vogliono eliminarmi. Un ascoltatore ci fa sapere, Fabrizio, ieri ho fatto il gasolio a Livigno sopra Valtellina, insomma, 1.098, cioè 1,098 euro, meraviglia. Ho capito, ma chi sta in Valtellina va a fare il pieno a Livigno, chi non sta in Valtellina non è che può partire da Napoli a fare il pieno a Livigno. Però insomma, Fabrizio giustamente ci scrive così, ognuno si arrangia come può. Invece la politica oggi sui giornali è quasi tutta declinata su due argomenti: gli strascichi delle polemiche Napolitano, intercettazioni ancora, ma soprattutto Beppe Grillo, che ha trovato una mossa certamente la domenica per finire sui giornali oggi con questa frase, con questo post, diciamo, pubblicato sul suo blog: il rito quotidiano dell'odio, con la O maiuscola, da parte di aizzatori di professione nei miei confronti, nei confronti degli appartenenti al Movimento 5 Stelle, dei miei collaboratori, sta diventando fragoroso, insopportabile, indecente. Lo scopo è quello chiaro: di creare mostri da abbattere per mantenere lo status quo. Cosa verrà dopo? Dal tiro al bersaglio metaforico si passerà a quello reale? L'informazione sta sconfinando in molti casi in istigazione a delinquere, come avvenne negli anni di piombo. Li diffami, li isoli e poi qualcuno li elimina. Insomma, un Beppe Grillo che ha evocato con questi toni apocalittici, rievocando gli anni di piombo, il rischio che qualcuno possa in qualche modo diffamarlo, isolarlo, perché poi c'è qualcuno pronto a eliminarlo fisicamente. Da Grillo, accuse a politici e media: istigano perché qualcuno mi elimini. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Per Repubblica anche qui il titolo, il Messaggero in pagina 9: Grillo, media e partiti istigano perché qualcuno mi elimini. L'Unità, Grillo, io vittima, come Silvio, lo paragona a Silvio Berlusconi. Insomma, il dato di fatto è che Beppe Grillo, con questa sparata, uso questo termine non a caso, si è guadagnato certamente oggi tante pagine sui giornali. Segno anche che il dibattito politico in questo momento è di questi livelli, appunto su queste dichiarazioni di Beppe Grillo, mentre Goffredo De Marchis su Repubblica riepiloga in realtà che cosa dice proprio lui: dal vaffa di piazza agli zombie sul blog, l'escalation di insulti negli editti di Beppe. Già nel raduno del 2007 a Bologna mise i politici alla gogna, tra gli epiteti più recenti rigor mortis, riguardante ovviamente Mario Monti, dedicato al premier. Poi c'è la Frignero, cioè la Fornero, ma poi si può andare avanti, se ne trova. E quindi dice: è paradossale che proprio lui alzi i toni in questo modo. E l'altro tema invece sono appunto la questione intercettazione Napolitano. Il giornale oggi mette in prima pagina questo titolo: la verità su Napolitano, ecco come sono andate le cose, il pasticcio nato dalla procura di Palermo. E riepiloga un po' tutta la vicenda Maria Teresa Conti a pagina 3, se volete leggere questa vicenda, mentre Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, racconta che nonostante le pressioni dei falchi, così definiti, ammaestrati di Palazzo Grazioli, che continuano a volteggiare su Palazzo Chigi e strumentalizzano la vicenda che riguarda le intercettazioni, nonostante tutto questo, scrive Massimo Giannini nella premessa, il governo Monti non ha in agenda un'accelerazione sul tema intercettazioni per quel che riguarda l'agenda di governo sul fronte giustizia. Giustizia, la roadmap Monti-Severino sulla corruzione, impegno europeo, patto forte tra i partiti per l'ok finale. È la priorità del governo, trovate tutta la ricostruzione a pagina 3 che lega appunto il tema intercettazioni Napolitano, le pressioni secondo Repubblica che dopo l'articolo di Panorama sono arrivate a Palazzo Chigi, come dire vedi adesso vedete ci vuole necessaria una stretta sulle intercettazioni, e la risposta di Palazzo Chigi che sarebbe non c'è questo in agenda almeno come accelerazione ma l'iter normale nel tema giustizia. Rimango ancora su Repubblica per raccontare che secondo il quotidiano e secondo Mauro Favale, la trovate la notizia a pagina 11, c'è un retroscena: Berlusconi non vorrebbe più Gianni Alemanno sindaco di Roma, anzi ci sarebbe stata proprio una chiamata da parte di Berlusconi ad Alemanno. Gianni, ma li hai visti i sondaggi? Se ti ripresenti Roma è persa, che ne dici di fare un passo indietro e lasciare che a candidarsi col PDL sia qualcun altro? Mancano 8-9 mesi alle comunali del 2013 e Berlusconi sarebbe sceso in campo così con Alemanno con una moral suasion per dire appunto se ti candidi perdiamo, e Alemanno avrebbe preso tempo, sarebbe pronto a dettare le sue condizioni, conscio che una via d'uscita da Roma alla luce dei sondaggi negativi potrebbe anche giovargli, avrebbe risposto siamo tutti nelle ipotesi se io mi faccio da parte il candidato del PDL non deve arrivare però delle file degli ex AN, anche se in realtà in prima linea come possibile candidata Berlusconi penserebbe a Giorgia Meloni. Questo racconta almeno Repubblica nell'articolo di Mauro Favale che trovate a pagina 11. Ci sono anche molti articoli sulla scuola oggi, perché insomma si riparte con la scuola a settembre. Ebbene, sappiate che tra l'altro il sottosegretario Rossi Doria sarà il nostro ospite alle 8.20. Ci sono anche delle problematiche legate per esempio ai tirocini annuali, i TFA, una storia infinita ricordata oggi dal Sole 24 Ore con Francesca Barbieri, tirocini dei prof con 4.000 posti vuoti. Ci sono stati anche dei concorsi che sono stati annullati, ci sono scuole che apriranno senza presidi, insomma una situazione un po' complicata, mentre il Corriere della Sera fa un articolo di due pagine, pagina 18 e 19, dal titolo Fuga dalla scuola, un ragazzo su 5 senza diploma. La dispersione scolastica, che è uno dei problemi più gravi. 2 ragazzi su 10 non riescono a ottenere un diploma e quindi per combattere questa dispersione scolastica, un problema serissimo nel nostro paese, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato un bando che punta ad abbattere l'abbandono degli studi nelle regioni più a rischio. Le regioni sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Saranno dunque distribuiti fondi europei per 25 milioni di euro entro il 2014, investiti altri 75 messi a disposizione dal Ministero dell'Interno per risistemare le strutture scolastiche per cercare di combattere la dispersione scolastica. Di questo ne parleremo con il sottosegretario alle 8.20. Che dire, c'è da chiudere ancora con qualcosa? Beh sì, posso chiudere con la Gazzetta dello Sport. I titoli: Juve, Giovinco è il top player, questo è il titolo più importante per la vittoria della Juventus ieri a Udine, mentre Zeman che lezione all'Inter, questo invece in taglio più alto è la vittoria della Roma 3-1 in casa dell'Inter a San Siro, ma il rompipallone forse di Gene Gnocchi è quello migliore. Barbara Berlusconi spiega la crisi con Pato: quando facevamo l'amore voleva sempre un ortopedico accanto al letto. Giornale radio e poi rientriamo alle 8.20.